Rubble, Ding Dong Rubble, Ding Ding Dong Rubble, Ding Dong Rubble. Ding dong rubble, ding dong rubble, ding dong rubble, ding dong rubble. Ding dong rubble, ding dong rubble, ding ding dong rubble, ding dong rubble, ding ding dong rubble, ding dong rubble, ding ding dong rubble, ding dong rubble. Colpisce sta testata proprio come un orario. Robin Robin è lì, Robin ti dai comandi. Mani da neonato, le mie mani sono grandi. No, sono delle mani da neonato super piccole. Non è vero, come vuoi, continuiamo, continuiamo. Ding dong bravo, ding dong bravo. Corvina qui per farti male perché niente più scuro di me. Più scuro no, non ce n'è. Voglio Azera, Mitrion, Zizzindo. Poteri magici, portali, adios. Ding dong bravo, ding dong bravo, ding ding dong bravo, ding dong bravo, ding ding dong bravo, ding dong bravo, ding ding dong bravo, ding dong bravo, ding ding dong bravo.